gli episodi fra di loro sono molto diversi. Io credo che questo di Torre Maura di ieri, a mio parere, sia particolarmente da capire, nel senso che lì parrebbe ci sia stato un movimento spontaneo di abitanti che hanno protestato sull'onda, ovviamente, anche di un clima culturale, forme di soffiare sull'odio che vanno ben al di là dei gruppi neofascisti, ma appartengono un po', sappiamo bene, a una propaganda più ampia di imprenditoria della paura, sicuramente molto più spinta da Salvini e dalle destre più grandi a livello partitico, ma sicuramente anche questo è il dato che è stato rivendicato. Oltretutto, gli esponenti di Casa Pound di Roma, con alcuni loro dirigenti, lo hanno anche scritto sul Primato Nazionale, il loro sito di informazione, si sono, diciamo, sono corsi a Torre Maura, che è un quartiere particolarmente, diciamo, degradato, in cui la mancanza di servizi e l'abbandono delle periferie è un dato concreto e reale da anni, diciamo, provando a sostenere la protesta e a dargli anche uno sbocco di natura politica, o quantomeno provare a rappresentare quelle istanze. In altri casi, invece, proteste sono state, diciamo, organizzate e aizzate da gruppi neofascisti negli ultimi anni. Sicuramente era più, diciamo, semplice per loro che questo avvenisse quando c'erano politiche che distribuivano i migranti o i richiedenti asilo in varie parti d'Italia a piccoli gruppi instabili, però molto arrangiati, oppure da parte del ministro degli interni, penso al periodo di Alfano, oppure in comunità, diciamo, legate al mondo cattolico. In quei casi lì la destra sapeva organizzarsi per tempo con dei presidi e quindi accorreva sul posto con un, diciamo, un corpo più militante, oppure, come capitò per esempio a Casal San Nicola qualche anno fa, Casa Pound, pur trattandosi di una ventina di migranti che sarebbe stato ospitato temporaneamente in quella zona, ma è una zona molto più residenziale, una zona di villette, dove aizzarono gli abitanti con anche un confronto molto muscolare con la polizia, che scortava con il pulmino dove di migranti e di, appunto, richiedenti asilo. E quindi quella fu una protesta, diciamo, organizzata in primis da Casa Pound, che nella zona del Lazio e da altre parti, anche quando avvenne il caso di Ciotti, provò, diciamo, a strumentalizzare le proteste, a presentarsi però con un corpo militante, mentre invece il caso di Torre Maura è un caso forse molto più preoccupante, perché lì parrebbe che le prime scintille siano state spontanee, spiazzando anche Casa Pound, che è corsa in un secondo momento. Tu prima parlavi di questa cultura, di questo humus culturale che in un certo senso favorisce anche Forza Nuova, Casa Pound e organizzazioni simili. Ti voglio chiedere se, rispetto a proteste di cittadini, temi sollevati dai cittadini, gli esponenti di queste organizzazioni di estrema destra si presentano in modo esplicito come, appunto, appartenenti a queste associazioni, e altra cosa, se il consenso che eventualmente raccolgono è un consenso sporadico per quegli episodi lì, o, come dire, è l'inizio di un percorso di avvicinamento, appunto, di questi cittadini. Devo dire, l'abilità in particolare di Casa Pound, perché questa è un'attività che fa tantissimo Casa Pound, Forza Nuova ha un'altra modalità che invece è molto più personalistica ed è molto più evocativa, nel senso che va poco in zone periferiche in giro per l'Italia, magari lo fa con le ronde, questa è una delle sue caratteristiche, ha cominciato per prima a fare delle ronde rispetto a Casa Pound. Casa Pound in realtà è molto mutevole, nel senso che spesso nella zona di Roma, dove appunto ha un gruppo militante un po' più spiccato e dove esistono periferie degradate, in effetti molto più che in altre parti d'Italia, Casa Pound prova sia a infiltrarsi in comitati di cittadini volti a chiedere maggior sicurezza contro il degrado, e lo fa spesso con esponenti locali di quella zona in maniera non plateale o rivendicata. In altri momenti invece, quando c'è fisicamente una questione per esempio di spostamenti o ridistribuzione territoriale, adesso vedremo quanto questo sarà anche problematico visto i restringimenti, diciamo, delle politiche di Salvini sull'accoglienza, in quel momento lì invece si presenta come Casa Pound. Alle volte è protagonista di questo anche Luca Marsella, che è un esponente della struttura della Tartaruga Frecciata, che è questo tanto noto consigliere municipale a Ostia, eletto nell'autunno del 2017, ed è uno un po' dei volti di queste proteste. Quindi la capacità di Casa Pound è questa estrema duttilità e questa strategia differente da territorio a territorio, dove invece magari in altri territori del centro-nord invece sono fatte delle ronde contro il degrado in prima persona con delle fiaccolate, penso a Torino, penso nella zona di Lampugnano come sta avvenendo a Milano, queste invece sono un po' più strutturate, quindi c'è sempre una strategia adeguata al luogo e adeguata al contesto, e questa risulta essere non concorrente e conflittuale, ma si avvantaggia anche del clima politico e socioculturale impostato da Salvini. Questa è la verità, le due dinamiche non confliggono e anzi vanno a sommarsi in un pericoloso cocktail. Sul consenso, è un consenso che rischia di consolidarsi. Beh sì, anche se chi capitalizza davvero tutto questo, va detto, visto che qui si tratta per Casa Pound di una minoranza attiva, diciamo come logica, sono altri, non sono riusciti a capitalizzare tutto questo, se vogliamo utilizzare semplicemente l'analisi dei flussi elettorali in questo senso. Però sicuramente è l'attività che più li mette a contatto con le persone, oltre a quella delle collette alimentari, quindi diciamo è una, sicuramente è una strategia in questo senso da anni e che porta i suoi frutti in alcune zone per il momento, ma ancora, questo sempre per dare un dato di realtà che è sempre importante riguardo a questi fenomeni, per anche non esagerarne la portata e comprendere anche come siano arginabili, ancora qualcosa di molto sporadico e limitato. E io ritengo che la stessa, diciamo, organizzazione prefigurata da Salvini con i nuovi CPR in qualche maniera vada anche un po' a depotenziare le possibilità in questo senso, nel senso che si torna a delle vere e proprie strutture detentive localizzate e sbandierate invece dalla Lega come soluzione nei territori. Quindi in questo senso, diciamo, resta una fortissima polemica dei gruppi di destra contro le ONG, le associazioni caritatevoli, spesso cattoliche, per quanto riguarda l'accoglienza, e non più contro piani governativi che invece sono molto più rigiditi.